Il maggiordomo non avrebbe mai immaginato che i bollettini non erano eccellenti e che non ci si avvicinava affatto a Berlino, dal momento che leggeva «Abbiamo respinto, con forti perdite per il nemico, eccetera», azioni che gli celebrava come nuove vittorie. Quanto a me, ero spaventato dalla rapidità con cui il teatro di quelle vittorie si avvicinava a Parigi, e fui anzi stupito che il maggiordomo, avendo letto in un bollettino che un'azione aveva avuto luogo nei pressi di Lens, non si fosse preoccupato, vedendo nel giornale del giorno successivo che i suoi sviluppi erano volti a nostro vantaggio a Jouy-le-Vicomte, le cui vie d'accesso erano saldamente nelle nostre mani. Eppure, il maggiordomo conosceva bene di nome Jouy-le-Vicomte, che non era tanto lontano da Combray. Ma i giornali li si legge come si ama, con una benda sugli occhi. Non cerchiamo di capire i fatti. Ascoltiamo le dolci parole del caporedattore come ascoltiamo le parole della nostra amante. Siamo sconfitti e contenti, perché non ci crediamo sconfitti, ma vincitori. Del resto, non ero rimasto molto a Parigi ed ero tornato abbastanza presto nella mia casa di cura. Sebbene in linea di massima il medico seguisse il metodo dell'isolamento, mi erano state recapitate lì, in due periodi diversi, una lettera di Gilbert e una di Robert. Gilbert mi scriveva, eravamo all'incirca nel settembre del 1914, che nonostante il suo desiderio di restare a Parigi per avere più facilmente notizie di Robert, le incessanti incursioni di Tauben su Parigi le avevano provocato un tale spavento, soprattutto per la figlioletta, che era scappata da Parigi con l'ultimo treno ancora in partenza per Combray, ma il treno non era nemmeno arrivato fino a Combray, e solo grazie al carretto d'un contadino, su cui aveva viaggiato atrocemente per 10 ore, le era stato possibile raggiungere Tansonville. «Dove?» mi scriveva alla fine Gilbert. «Immaginatevi un po' cosa aspettava la vostra vecchia amica. Me ne ero andata da Parigi per sfuggire agli aerei tedeschi, figurandomi che a Tansonville sarei stata al riparo da tutto. Ero lì da neanche 2 giorni, che non lo immaginereste mai. Ecco cos'è capitato. I tedeschi che invadono la zona dopo aver battuto le nostre truppe presso la Fère e uno stato maggiore tedesco che, seguito da un reggimento, si presenta alla porta di Tansonville e io costretta a ospitarli, e nessun modo per scappare, non un solo treno, niente. Lo stato maggiore si era comportato effettivamente bene. Oppure nella lettera di Gilbert bisognava vedere una conseguenza per contagio dello spirito dei German, che erano d'origine bavarese e imparentati con la più alta aristocrazia di Germania. Ma sta di fatto che non la finiva più con la perfetta educazione dello Stato Maggiore e persino dei soldati, che si erano limitati a chiederle il permesso di cogliere uno dei non ti scordar di me che crescevano vicino allo stagno, buona educazione da lei contrapposta alla violenza disordinata dei fuggiaschi francesi, che avevano attraversato la proprietà saccheggiando tutto prima dell'arrivo dei generali tedeschi. In ogni caso, se la lettera di Gilbert era per certi lati impregnata dello spirito dei German, altri direbbero dell'internazionalismo ebreo, il che, come vedremo, non sarebbe stato giusto. La lettera che ricevetti dopo qualche mese da Robert, oltre ad essere invece molto più Saint-Lieu che German, rifletteva tutta la cultura tipicamente liberale da lui acquisita ed era, insomma, del tutto simpatica. Purtroppo non mi parlava di strategia, come nelle conversazioni di Doncier, e non mi diceva fino a che punto gli sembrava che la guerra confermasse o invalidasse i principi che mi aveva esposti allora. Il massimo che mi disse era che dal 1914 in poi si erano succedute, in realtà, più guerre, e che gli insegnamenti di ciascuna avevano influito sulla condotta della successiva. E, per esempio, la teoria dello sfondamento era stata completata dalla tesi secondo la quale bisognava, prima di sfondare, sconvolgere totalmente con l'artiglieria il terreno occupato dall'avversario. Ma in seguito si era constatato che, al contrario, Tale sconvolgimento rendeva impossibile l'avanzata della fanteria e dell'artiglieria in terreni dove migliaia di buche di proiettili avevano creato altrettanti ostacoli. La guerra, concludeva Robert, non sfugge alle leggi del vecchio Hegel. È in perpetuo divenire. Era poco rispetto a quanto volevo sapere, ma a irritarmi ancora di più era che non avesse nemmeno il diritto di citarmi dei nomi di generali. E d'altronde, stando al poco che mi diceva il giornale, a condurre questa di adesso non erano coloro fra i quali, ad Onsier, mi ero preoccupato di sapere chi avrebbe mostrato più valore in una guerra. Guesland de Bourgogne, Galifet, Négrier erano morti. Po aveva lasciato il servizio attivo poco dopo l'inizio della guerra. Di Joffre, di Foch, di Castelnau, di Pétain non avevamo mai parlato. «Carissimo», mi scriveva Robert, «ammetto che frasi come non passeranno o li abbiamo in pugno non sono gradevoli. Per molto tempo mi hanno allappato i denti come Poilu e il resto. Ed è certamente spiacevole costruire un'epopea su termini che sono peggio di un errore di grammatica o di gusto, che sono qualcosa di contraddittorio ed atroce, un'affettazione, una volgare pretenziosità del tipo di quelle che tanto detestiamo, come per esempio chi crede d'essere spiritoso dicendo coca invece di cocaina. Ma se tu vedessi tutta questa gente, soprattutto la gente del popolo, operai, piccoli commercianti che mai avrebbero sospettato di avere dentro di sé tanto eroismo e sarebbero morti nel loro letto senza averne sentore, correre sotto le pallottole per soccorrere un compagno, per riportare un capo ferito e, colpiti a loro volta, sorridere nel momento in cui stanno per morire perché il maggiore medico li informa che la trincea è stata ripresa ai tedeschi, ti assicuro, mio caro, che questo dà una bella idea dei francesi e fa capire le epoche storiche che a scuola ci sembravano straordinarie. L'epopea è talmente bella che troveresti anche tu, come me, che le parole non contano più niente. Rodin o Maillol potrebbero fare un capolavoro con una materia terribile che non si riconoscerebbe più. Davanti a una simile grandezza, Poilu è diventato per me qualcosa di cui non capisco nemmeno se all'inizio abbia potuto contenere un'allusione o uno scherzo, non più di quando, per esempio, ci imbattiamo in Chouan. Sento che Poilu è già pronto per essere usato da grandi poeti come le parole diluvio, Cristo o barbari, che erano già impastate di grandezza prima che Hugo, Vigny o gli altri se ne servissero. Ho detto che il popolo, gli operai, sono quanto c'è di meglio. Ma tutti sono magnifici. Il piccolo Vaugoubert, il figlio dell'ambasciatore, è stato ferito 7 volte prima d'essere ucciso e ogni volta che tornava da un'azione senza essersi buscato qualcosa aveva l'aria di scusarsi e di dire che non era colpa sua. Era una creatura incantevole. Eravamo diventati molto amici. I genitori hanno avuto il permesso di assistere alla sepoltura a condizione di non indossare il lutto e di rimanere solo 5 minuti per via del bombardamento. La madre, una cavallona che forse conosci, sarà anche stata addoloratissima, ma non si vedeva affatto. Il padre, invece, poverino, era in uno stato tale che io che ho finito col diventare assolutamente insensibile, abituato come sono a vedere la testa del compagno con cui sto parlando, dilaniata all'improvviso da una scheggia, se non addirittura staccata dal tronco, non ho potuto dominarmi alla vista del povero Vaugoubert, crollato, ridotto a uno straccio d'uomo. Il generale aveva un bel dirgli che era per la Francia, che suo figlio si era comportato da eroe. Riusciva solo a far raddoppiare i singhiozzi del poveretto, che non riusciva a staccarsi dal corpo del figlio. In fin dei conti, ed è per questo che bisogna assuefarsi a non passeranno, è stata questa gente, come il mio povero cameriere, come Vaugoubert, che ha impedito ai tedeschi di passare. A te forse sembra che non avanziamo granché, ma non bisogna ragionare. Un esercito si sente vittorioso in base a un'impressione intima, così come uno che sta morendo si sente spacciato. Ebbene, noi Sappiamo che avremo la vittoria e vogliamo averla per dettare una pace giusta, non voglio dire giusta solo per noi, ma veramente giusta, giusta per i francesi e giusta per i tedeschi. Ben inteso, il flagello non aveva elevato l'intelligenza di Saint-Louis al di sopra di se stessa. Come gli eroi di intelletto mediocre e banale, che scrivevano poesie durante la convalescenza, si mettevano, per descrivere la guerra, non al livello degli avvenimenti, che di per sé non sono niente, ma a quello della banale estetica, di cui avevano seguito le regole sino a quel momento, parlando come avrebbero fatto 10 anni prima della cruenta aurora, del fremente volo della vittoria, eccetera. Così Saint-Louis, molto più intelligente e artista, rimaneva intelligente e artista e schizzava con gusto, per me, dei paesaggi mentre era bloccato al limitare di una foresta paludosa, ma come se fosse stato lì per una caccia all'anatra, per farmi capire certi contrasti d'ombra e di luce che erano stati l'incantesimo della sua mattinata. Mi citava certi quadri che entrambi amavamo e non temeva d'alludere a una pagina di Romain Rolland o addirittura di Nietzsche, con l'indipendenza di chi, stando al fronte, non aveva la stessa paura di pronunciare un nome tedesco di chi stava nelle retrovie, e magari con quella punta di civetteria nel citare un nemico con cui, per esempio, il colonnello du Paty de Clam, nella sala d'attesa dei testimoni al processo Zola, passando davanti a Pierre Quillard, poeta dreyfusista del più violento estremismo che lui peraltro non conosceva, recitava alcuni versi del suo dramma simbolista La fille aux mains coupées. Saint-Louis mi parlava di una melodia di Schumann, ne dava il titolo solo in tedesco, e non ricorreva ad alcuna circonlocuzione per dirmi che quando, all'alba, aveva sentito un primo cinguettio al limitare di quella foresta, era stato preso dall'ebbrezza come se gli avesse parlato l'uccello di quel sublime Siegfried che sperava tanto di ascoltare dopo la guerra.